ripetere gli esattori. Buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti, compresi quelli che stanno arrivando adesso. Mi spiace che, per fortuna, per l'affluenza, ma forse qualcuno sarà addirittura costretto a rimanere in piedi, comunque qualche sedia ancora c'è. Allora, ci presentiamo brevemente, l'autore di Dolomiti di Piombo, Peter Disertori. Buonasera. Professor Luigi Scapini. E sottoscritto, che è l'editore del libro stesso, della casa editrice Inchiostro, Il Riccio Editore di Verona. Io in realtà ho ben poco da dire, perché penso che la persona che più deve parlare del libro è l'autore, perciò Peter Disertori. Io posso semmai spiegare in un minuto come e perché siamo arrivati a decidere di pubblicare questo libro. La nostra casa editrice esiste da 14 anni e pubblica questa rivista che si chiama Inchiostro, che nel suo piccolo, perché ovviamente è una rivista di nicchia, però è la prima, la più diffusa, la più venduta rivista italiana di narrativa, e si occupa, poi qui queste copie sono a disposizione, per cui chi vuole prenderla ben volentieri, sono in distribuzione gratuita. Dicevamo, noi siamo a distribuzione nazionale e l'obiettivo della rivista da 14 anni è appunto di intercettare i migliori tra gli autori esordienti, cioè tra gli autori non professionisti a livello nazionale. Ci arrivano ogni anno centinaia, per non dire migliaia, di manoscritti, sia racconti sia romanzi, un po' da tutta Italia, e vuoi per la rivista, vuoi perché in taluni casi anche come sotto forma di libro, pubblichiamo quelli che a nostro giudizio sono i più convincenti, i migliori, i più validi. Però mentre per la rivista esce ogni due mesi, per cui insomma c'è una certa un buon numero di racconti che vengono pubblicati, per quanto riguarda i romanzi la cosa viene in maniera molto più rara, diciamo. In media pubblichiamo circa un romanzo all'anno. Questo per dire che effettivamente prima di arrivare a pubblicare un romanzo, questo veramente ci deve aver convinto. E così è stato effettivamente per Dolomiti di Piombo di Peter Disertori. Quando l'abbiamo letto, è stato circa un anno fa, immediatamente ci ha subito convinti, e ne abbiamo deciso quasi immediatamente la pubblicazione. E i motivi sono presto detti, e sono sostanzialmente due. Quando si decide di pubblicare un libro, ci si mette ovviamente nei panni del lettore e si pensa a quello che possa essere il destinatario finale, che è appunto il lettore. E quando noi leggiamo un libro, lo leggiamo sostanzialmente per due motivazioni, o per l'una o per l'altra, ovvero perché il libro ci deve divertire, cioè ci deve appassionare, ci deve coinvolgere, oppure perché il libro stesso ci deve comunicare qualcosa, ci deve insegnare, se vogliamo, comunque far conoscere qualcosa che in precedenza non conoscevamo. Il libro di Peter Disertori riesce a conciliare questi due aspetti, cioè riesce effettivamente a comunicare qualcosa sia per chi il periodo degli anni 60 in Alto Adige l'ha vissuto, sia per chi magari come sottoscritto per questioni o anagrafiche o geografiche non l'ha vissuto fino in fondo, per cui riesce a fargli conoscere un ambiente, una situazione altrimenti sconosciuta, ma lo fa in maniera divertente, cioè riesce ad appassionare. Il bello di questo libro è che è a tutti gli effetti un romanzo avvincente, se vogliamo una spy story. Però a differenza di, non lo so, dello 007 di Ian Fleming o della talpa di Le Carré o che ne so io di Gorky Park di Martin Kreutzer-Smith, anziché essere ambientato a Los Angeles piuttosto che a Mosca, a Miami piuttosto che alle Seychelles, è ambientato nelle nostre zone. Per cui sia i riferimenti geografici ma anche storici di ambiente sono quelli che noi conosciamo benissimo. E perciò il bello di questo libro è che riesce a farci vivere una storia estremamente appassionante, estremamente coinvolgente, che si legge, come suol dirsi, tutto d'un fiato, però lo fa in un'ambientazione perfettamente conosciuta, per cui riesce anche a agevolare la lettura anche da questo punto di vista. Insomma, quando noi l'abbiamo letto abbiamo capito che riusciva a coniugare, a mettere insieme questi due aspetti che normalmente non è facile trovare in un libro. Da qui la decisione Sic et Simpliciter di pubblicarlo, e dopo pochi mesi il libro ha visto la luce. Direi che l'autore è il migliore interprete della storia. Non ha parlato. Sì, sì. Ecco, allora io mi trovo, non è la prima volta che presento uno dei libri dei disertori, perché ho presentato anche la monumentale prima parte della biografia di Sandro Disertori, padre di Peter. Sono una famiglia che ha veramente il dono della penna. Di Peter non è il primo libro, ne ha scritti 8 libri storici, per esempio Storia contro, filosofici, un libro sugli Esseni. Tutta questa sua biografia, che parte dalla panchina, poi c'è Nai all'ultima vacanza, poi viene poi questo qua, poi Nai all'ultima vacanza, poi Osteria del Porto, per cui c'è tutto questo, tutta una storia. Poi ci sono e tante altre cose. Peter è uno che ha il dono dello scrivere. Peter è un personaggio, come anche Sandro, ma Peter, interessantissimo. Peter per me, io sono veronese, è l'uomo dell'altra valle. Peter è sempre di qualche altra parte, cioè lui è trentino, ha origini mitteleuropee, germaniche, addirittura dalla Stiria, ungheresi, danesi, italiane, è Pallavicino. Ma anche da un punto di... la madre è Pallavicino. Anche danesi, stiriane, croate, ungheresi, viene da tutte le parti. I dissertori stessi sono questi trentini che si sono in questo... Fa parte anche da un punto di vista sociale interessante Peter, perché nella sua famiglia c'è la più alta aristocrazia, la borghesia tecnica, ingegneri, è un uomo mercuriale, un uomo che viaggia moltissimo, non a caso si occupa di trasporti nel suo lavoro non di scrittore, perché secondo me lui è uno scrittore, ma quello che è bello, la sua casa ad esempio è su uno spartiacque, non, di che vale, sei di qua o sei di là, non si sa mai di che parte è Peter. Peter è un uomo, proprio questo lo fa essere estremamente tollerante, estremamente al di sopra della mischia, estremamente che è una cosa e anche l'altra, è un personaggio veramente interessante, come è veramente interessante questo libro, che è possibile leggere a diversi livelli. Primo livello, ne ha parlato l'editore magistralmente, questa fiction di spionaggio, vispa, scorregole, accattivante, è inutile che continui a parlarne, perché ne ha parlato già bene l'editore. Dietro questa fiction però appare il sentimento. In un certo senso c'è Peter, rispetto ai romanzi, appare il sentimento, si fa rivivere le emozioni, c'è un ricordare, un prendere parte, una certa qual dimensione lirica, struggente. E questo è un grosso aspetto bello di questo romanzo di Peter. Inoltre, secondo me, c'è un altro aspetto, che secondo me anche questo è molto importante. In fondo, come tutti i suoi romanzi, non parlo dei saggi, ma dei romanzi, sono sempre romanzi di formazione. Cioè, secondo me, Peter è un ottimo, proprio nella tradizione mitteleuropea, lui è un uomo mitteleuropeo, è l'uomo del romanzo di formazione. In un certo senso, come ho detto prima, questa serie di suoi romanzi sono proprio dei romanzi di formazione della sua vita. C'è anche un altro aspetto molto importante, questo è un libro di viaggio, non dico di viaggi, di viaggio. È un libro dove c'è un viaggio che descrive un'andata e un ritorno. Proprio sull'archetipo dell'anabasi e la catabasi di Senofonte, ma veramente. Mi viene in mente un altro grande libro di viaggi, Saltando i secoli, Canaglia in armi, di Ken Roberts. non so se l'avete, Canaglia in armi, quello che ha scritto anche Passaggio Nord-Ovest, uno splendido libro di viaggi, questa andavano praticamente dalla Nuova Inghilterra al Quebec e tornavano indietro, c'è questo andare e ritornare, che è fondamentale in un libro. Ma potrei anche citare, forse uno dei più, nell'ambito del fantasy, un grandissimo libro di viaggi che è Il Signore degli Anelli. Guardate che c'è nel romanzo di Peter un qualche cosa del Signore degli Anelli, proprio in questo andare e venire, in questo descrivere il viaggio, in questo descriversi quando si mangia, quando ci si riposa, e questo ritmo differente che è proprio caratteristico del viaggio. Questo sono cose magistrali del romanzo di Peter Disertori, queste qua. Riuscire proprio questo ritmo che varia, ci sono i momenti di pausa, i momenti di riposo, i momenti più concitati, i momenti più descrittivi, i momenti dove avvengono. Ecco, a questo punto, forse fantasy, ma secondo me anche qualche cosa che va oltre il fantasy, un qualche cosa che è una proiezione. In questa storia, diceva giustamente l'editore, è un paesaggio che conosciamo, è un mondo che... Però Peter ha quel distacco contemplativo, secondo me, del vero artista, che trasforma la storia in metastoria, che trasforma il paesaggio in metapaesaggio. Questi posti che lui descrive sul suo romanzo, io li conosco. Cioè, magari qui ci sono persone che li conoscono molto meglio, voi fate parte proprio di questa, io sono veronese, però lui lo trasmuta, e qui c'è proprio una dimensione veramente fantasy. Il fantasy inventa un nuovo paesaggio, una nuova geografia, eccetera. I luoghi di cui parla hanno sì nome, sono sì quei posti che io ho visto, in cui ho sciato, in cui ho fatto roccia, però nel romanzo di Peter diventano qualche cosa di estremamente diverso. Adesso, oggi, siamo qua tutto il pomeriggio, che siamo insieme, che portiamo libri, che andiamo di qua, che andiamo di là, e mi parla di Bolzano. Io sono venuto tante volte a Bolzano, ma come me la descrive lui? Ci si mette dentro lui, come mi descrive i posti, come me li presenta, qui così, qui. Sembra che trasfiguri i luoghi. Cioè c'è una dimensione, altra. Cioè c'è, pensiamo a queste colossali bevute, queste donne misteriose, meravigliose, queste cause non tanto perse, quanto cause contrarie ad ogni paradigma. Quello che è di bello nel libro di Peter è che sentivo oggi quella che lo intervistava, una persona della RAI, non so, ma è anti-italiano. Peter è metastorico, anti-italiano, non è queste cose qua. Il mondo di Peter è un altro mondo, è un mondo che lui proietta. È un mondo in cui ti tira dentro col suo incanto. Mi viene in mente la frase di Dante, che l'arte a vostra, a Dio quasi è nepote. È un creativo puro, il suo è un mondo di creazione fantastica. Certamente è storico, i posti sono veri, è un romanzo di spionaggio, sono cose che sono successe, però ti ci porta dentro in una dimensione, in una visione che è originale, è un visionario Peter. Ecco, io sono solamente un pittore, sono abbastanza surreale nella mia pittura, non so, per me, in fondo corrisponde alla mia visione, per me l'Alto Adige, perché io sono veronese, io sono sempre venuto in vacanze in Alto Adige, è un mondo di sogno. La cultura tedesca, per esempio, per me è un sogno tedesco, come molti di noi italiani. Una buona parte degli italiani hanno una visualizzazione, un sogno, si chiama proprio il sogno tedesco. Mio nipote si è sposato con una tedesca di Stoccarda, e proprio al suo matrimonio ho fatto questo discorso. Tu, si chiama Giovacchino mio nipote, è di Firenze, tu fai parte di quegli italiani che hanno il sogno tedesco, vagheggiamo un mondo tedesco. E Peter, in un certo senso, proprio leggendo il suo libro, quando lui parla di queste cose, è quasi l'incarnazione di questa cosa qua. Lui la incarna, in un certo senso è un personaggio di questo sogno. Per me, ad esempio, non so, questo mondo degli anni 60, di questi Atene, io me lo ricordo vagamente, sono più vecchio di Peter, per cui forse me lo ricordo certamente meno bene di lui, ma erano delle occasioni di sciopero, quando si andava a scuola, eccetera. Però, quest'aura di cui ha circondato queste cose, Peter, l'ha portato in uno spazio, in una dimensione che mi fa evadere dal grigiore di una realtà troppo stretta, in cui c'è il fascino. Questo è la grandezza di, per questo che dico un grande autore di, forma, di romanzi di formazioni, in cui c'è tutto il fascino di tutte le possibilità della giovinezza. Peter è un eterno ragazzo. C'è il sapore del distillato dei momenti pregnanti della vita, cioè quei momenti importanti, quei momenti che fanno una vita, che sono pochi. Io penso che prima di morire ci ricorderemo poche cose. Ecco, Peter le coglie e ne sa cogliere il sapore, la dolcezza di particolari momenti in cui si è sedimentato l'incanto. Chi è il personaggio? Chi è Peter di questi qua? È tutti ed è nessuno, è Evil. Però in questo libro, a leggerlo con attenzione, ritroviamo i momenti più belli della vita di Peter. I momenti più belli, i momenti più difficili, i momenti più... C'è e non c'è dentro. Cioè ti porta proprio per mano, con la sua creatività, in questi momenti di incanto che ti astraggono dalla realtà della vita e ti portano in una dimensione altra, e secondo me portarti in quella dimensione lì è uno degli scopi dell'arte. Per cui secondo me Peter è un artista. Io ti ringrazio. Dopo un intervento di questo genere, tutto quello che dirò sarà estremamente banale. Però banale non è il ringraziamento a tutti voi che siete venuti. Per me è sempre un'emozione tornare a Bolzano, dalla quale io mi sono distaccato nel 67, però ci ho lasciato il cuore. Emozionato perché abitavo qua proprio a 30-40 metri di distanza, e per me, andando via poi, girando abbastanza per il mondo, ho sempre idealizzato questi luoghi, quei momenti trascorsi. Soprattutto perché vedo Bolzano ancora con gli occhi di allora, cioè qua c'erano le vigne, io mi ricordo Piazza Mazzini, quando veniva il circo mettevano sul tendone Piazza Mazzini, il Piazza Tribunale era sterrata, si andava lì a giocare con le biciclette o a calcio. Quindi questo è uno dei motivi per cui mi sento sempre, sono sempre contento di poter tornare a Bolzano. Per fortuna c'ho qua mio figlio, che è artefice anche dell'organizzazione, che lo ringrazio per quello che ha fatto per suo padre. Perché ho voluto scrivere questo libro? Io parto sempre da un principio storico. Se guardiamo bene, la storia è fatta da una lunga serie di massacri, di guerre, di ingiustizie, di vigliaccherie, che sono poi controbilanciate da pochi atti di abnegazione, di eroismo, che non sono sufficienti a controbilanciarla. Però la storia viene poi scritta in genere da chi vince. E molte volte poi succede anche una cosa: quando vengono commesse delle ingiustizie, per rimettere a posto queste ingiustizie, si compiono delle ingiustizie ancora più grandi. E questa, diciamo, è la base sulla quale mi sono cimentato con questa idea. Quindi, partendo da questo punto di vista, io quando andavo giù in Italia, mi chiamavano Traliccio qua, Traliccio là. E quindi c'era questa non conoscenza, cioè venivamo identificati tutti, al di là del fatto che si parlasse italiano o tedesco, come Tralicci. Quindi la storia è anche come una montagna. Cioè, io prendo sempre come esempio il Cervino è chiamato Matterhorn dagli svizzeri, e si chiama Cervino per i valtostani, per gli italiani. Però parliamo della stessa montagna. E così è anche la storia. La storia viene raccontata sempre, molto spesso, da punti di vista completamente diversi, ed è difficile trovare poi dei punti in comune. Però, al di là del fatto del divertimento puro di scrivere, io scrivo perché mi diverto. Non credete che quando uno dice io scrivo per me stesso dica il vero. In realtà tutti, anche quelli che scrivono i diari più segreti, sperano sempre che qualcuno poi li legga. Cioè, il mettere per iscritto significa volere dare una testimonianza che si era presenti in quel momento, che abbiamo bene o male fatto parte di quel momento storico. Quindi e lo scrivere nasce da una forma di timidezza, da una forma, da una voglia di dire c'ero anch'io in quel momento. E tornando un attimo a Bomba, perché appunto essendo vissuto qua mi sono divertito perché ricostruire gli anni 60 è stato un qualcosa che ha preso molto tempo, al di là della storia che non anticipo e non racconto, perché poi si tratta appunto è una spy story, quindi ha tutti gli elementi buoni e cattivi da una parte e dall'altra, non è questa, ma proprio dicendo come si viveva negli anni 60, cioè ripensare quanto costava un giorno, come ci si muoveva. Adesso se uno scrive una spy story con i telefonini, con i computer, con tutte le robe, a parte che deve essere una fatica boia, una volta bastava scappare in montagna, basta, si era imprendibili, o erano gli altri più veloci. Adesso è diventato tutto più complicato con i satelliti, una volta per telefonare c'era bisogno dei gettoni, addirittura nel 65 bisognava telefonare al 10 per fare un intercomunale. Bolzano in quell'epoca lì era già collegata direttamente con 0476 con Innsbruck, perché aveva già questi vantaggi. Quindi mi sono divertito a ricostruire anche quel momento storico, proprio la cosa spicciola. E lì devo dire internet mi ha aiutato molto, perché oltre che spulciare libri uno va lì e si rende conto di quanto tempo sia passato. Questo che noi parliamo di una storia, 65 sono 43 anni fa, era completamente diverso il mondo. C'erano quando ho dato il romanzo ed è passato sotto gli editor sono delle persone straordinarie, prendono il manoscritto e oltre a guardare gli errori di battitura e gli errori che uno fa magari con i verbi, analizzano anche il contenuto, cominciano a dirti qua ti sei ripetuto, qua sei melenso, qua è una frase da film, non è verosimile, controlla, cioè riprendono in mano tutto. Quando io ho scritto, dice, erano vestiti da italiani, queste ragazze, laureate adesso quindi hanno 20 anni, dice, come vestiti da italiani? In epoca di globalizzazione siamo tutti uguali, sia a New York, a Roma, bene o male, i negozi sono uguali in tutta Europa. Allora, gli italiani e i tedeschi si vestivano in maniera diversa, i barbieri erano diversi. Cioè c'era tutto, si vedeva questo qua le tedesche, questo qua le un italiano, quindi anche queste frasi che non erano capite da cosa, io ho cercato di riprodurle, di riportarle. Ripeto, mi sono divertito, l'intento era quello di dare una testimonianza, tra l'altro penso di quel periodo sia stato scritto a livello storico molto, ma nessuno ha, a meno che non mi risulta che qualcuno abbia scritto un romanzo, cioè una fiction. La fiction ha il pregio, a differenza del libro storico, di fare rivivere, secondo me, l'aspetto emozionale del momento storico. Perché la storia, dicevo prima, è una lunga serie di guerre, di massacri, questi fatti vengono poi riportati nei libri di storia e diventano statistica quasi, diventano una serie di date. Nella lì di quanti ebrei sono stati bruciati, 6 milioni, no, erano 5-8, come se anche una vita umana è di troppo, quindi diventa statistica. Il romanzo, il racconto breve, la fiction, hanno invece la peculiarità di fare rivivere l'aspetto emozionale di quei momenti, quindi anche se i fatti sono inventati, le emozioni possono essere vere e possono aiutare, secondo me, a capire e a guardare con un attimo, con uno sguardo più disincantato, più giusto, più equo la storia. Noi in tutta Europa, specialmente noi persone di frontiera, siamo sempre stati in una maniera o nell'altra torteggiati dalla storia, confini che si sono spostati, guerre inutili, cose strane, viste nel centro dei paesi sono delle cose abbastanza lontane, per noi no. Io penso, se andiamo più lontano, i polacchi, che a un certo momento erano tedeschi, i russi, austriaci, cioè tutta questa gente, questo vecchio mito d'Europa in cui le frontiere erano delle cose nebulose, c'era l'impero, era tutto tollerato, si è frantumato di fronte ai nazionalismi. I nazionalismi che hanno voluto creare questi confini, fatti molte volte dopo dei trattati, dopo delle cose, sulla carta che diventavano poi delle cose assolutamente statiche, hanno creato tutta questa serie di emozioni, in positivo e in negativo. Stiamo parlando nel 2008. se io vado a Innsbruck pago una birra in euro, se sono a Bolzano me la pago in euro. Molte cose si sono annacquate, secondo me ci sono sicuramente ancora delle cose, degli strascici, ma io penso che si debba guardare in avanti. Nel mondo ci sono tanti problemi molto più gravi di quello che è stato qua, dico per fortuna, sicuramente sono state commesse delle grandi ingiustizie, c'è gente che ha sofferto. Il romanzo ha anche diciamo la peculiarità di sdrammatizzare un po', di renderlo più, appunto perché è vivo, perché è fatto di emozioni, e dire, toh, ma chi l'avrebbe mai pensato, la storia si può vedere anche così. Quindi io spero di essere riuscito nel mio intento, e vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete prestato. Se qualcuno vuole fare delle domande, noi siamo a disposizione. Grazie mille. Prego, Georg. Io non vorrei fare una domanda, ma un mio vissuto quando l'ho letto questo libro, l'ho letto ad un fiato, un fine settimana, e all'1:30 del mattino avevo finito, cioè non potevo più smettere. E questo romanzo racconta un po' come l'ho vissuto. Degli anni 65, che erano i miei anni, ricordo che quegli anni, 5 anni prima della storia del 65, io facevo il ginnasio dei francescani, quegli attori potevano essere miei compagni di classe. Allora, passando qui in centro, a Bolzano, quando eravamo in 3 ragazzi in gruppo, veniva la cenere per disperderci, non si poteva stare in 3. Ho avuto anche un cugino che è stato condannato a 14 anni di prigione, perché è stato uno dei dinamitardi, bombaioli. Sono stato al processo a Milano e sono andato a trovarlo spesso in prigione. Mi è piaciuto moltissimo, cioè qui c'è stato, cioè trovo, quello che mi è piaciuto molto è che, per quanto la posso giudicare io, la lingua italiana, i dati geografici tutti perfetti, e la storia che nell'arco di 3-5 anni si è avverata in quel periodo viene mescolata e riappare. E forse ho trovato la prima parte dei primi capitoli un po' posso dire filo tedeschi, dico io sono della lingua tedesca, e dopo l'ho trovato molto molto equilibrato la descrizione degli avvenimenti fino alla fine. E posso soltanto complimentarmi con te, Peter, e ti auguro buon successo in questo libro. Ti ringrazio. Grazie. Io vedo defilati in fondo anche dei miei ex compagni di liceo, affermati professionisti. Ciao. Bene, io posso fare una domanda? Certamente. Mi farebbe piacere capire quanto c'è di fantasia e quanto c'è di verità, senza raccontare proprio, per capire quanto si possa ritrovare la storia. Le rispondo un attimo io. Lui è tenuto a dire, abbiamo già, questa domanda è stata fatta, lui adesso dirà che tutta quanta fiction, tutta quanta fantasia. Altre persone molto vicine a lui, e non dico chi, ma molto molto vicine a lui, mi hanno detto che la base di questa storia è reale. Ci sono i nomi cambiati, ci sono i fatti, però la sostanza è un fatto reale. Lui naturalmente negherà, perché deve farlo, e perciò adesso passo la parola a lui. In realtà, a quanto pare, a quanto si dice, a quanto si sussurra e non si può dire ufficialmente, è una storia nella buona sostanza vera, con i giusti adattamenti che la fiction richiede, però lo scheletro, la base è una storia reale. Lui adesso nega. L'editore è sempre interessato, quindi bisogna dare il giusto peso a quello che dice. E certo, io mi sono aiutato per costruire i personaggi a delle persone che potevano assomigliare, questo per scrivere, ma succede anche a un regista di un film, sceglie gli attori che più assomigliano al personaggio che uno crea, quindi diventa più facile scrivere se uno si manda. Adesso, scherzi a parte, per rispondere alla tua domanda, direi che il tutto, e Georg l'ha cristallizzato, l'ha detto bene, è plausibile. Nel 65 cose così non sono successe, né prima né dopo. La storia è inventata di sana pianta. Però è tutto a un riferimento, perché non dimentichiamo, parliamo del 65, nel 64 c'è stato Santusio, c'erano tutti gli avvenimenti, quindi erano già gli anni, diciamo, più duri, erano gli anni 62, 63. Io volutamente l'ho spostato avanti nel tempo, proprio per evitare che qualcuno si possa, tra virgolette, riconoscere. Quindi la storia è inventata. Sono plausibili i luoghi, le situazioni, avrebbe potuto succedere. Per fortuna non è successo, ma è un libro. Vi ringrazio. Grazie. Sarebbe fare due considerazioni e una domanda. Lei ci ha spiegato che vive da molto tempo fuori dalla nostra provincia e quindi immagino che lei guardi con un certo disincanto anche quello che noi cerchiamo di combinare per supportarci, per vivere insieme, insomma, per costruire qualcosa insieme. Lei ha detto anche, tutti condividono questa idea, che ognuno ricostruisce la storia secondo la propria esperienza, secondo la propria aspirazione di futuro. Lei che vive appunto al di fuori dei nostri confini, quanto pensa ci voglia affinché venga scritta una storia comune per quanto riguarda gli avvenimenti che sono successi nel dopoguerra, affinché poi questa storia comune venga proposta anche agli studenti, quindi ai nostri figli, affinché, diciamo, questa storia comune, diciamo, è comunemente interpretata, è comunemente capita, venga spiegata, e quindi affinché ci sia anche una certa base per migliorare un po' la convivenza di questa provincia. Beh, io intanto la ringrazio per la sua domanda, che non è assolutamente banale, ma è difficile. Cioè, qua secondo me sta alla maturità delle persone di poter ricordare. Chi usa, come ho usato io, la fiction per fare vedere, se vogliamo, una parte di una montagna, come l'ho chiamata prima, bisogna mettere un po' insieme tutto quanto. L'Italia è un paese strano. Io vedo che si fa molta fatica dopo 60 anni anche a parlare della resistenza, della guerra civile italiana, quindi c'è sempre un tentativo di personalizzare. Io, vivendo fuori, tra l'altro con una moglie pustera, con un figlio che vive a Bolzano, con la moglie di mio papà di Terlano, quindi sono vivo dal di fuori, quindi lo vedo sicuramente in maniera disincantata, però le informazioni, poi oggi le informazioni viaggiano via internet, via televisione, quindi è difficile disinformare, però è ancora più difficile ricordare la storia con obiettività. Quando ci sono dei caduti, quando ci vengono fatte delle violenze, è difficile per chi le ha subite girare pagina. Ci vuole molto coraggio, ci vuole del tempo. Quindi io, come carattere, sono sempre positivo e credo, perché abbiamo avuto esempi nella storia di pacifica convivenza, soprattutto in questo caso parliamo di due culture a livello mondiale, quella italiana con il Rinascimento, quella tedesca con l'Ottocento tedesco. È impossibile che due culture di un tale spessore non trovino dei punti di contatto, cioè significa non volerli trovare. Quindi la sua domanda, e la ringrazio ancora, è sempre aperta, cioè io non ho la risposta, sta secondo me nella maturità degli insegnanti, di tutta una serie di cose. Ripeto, ci sono stati dei film a suo tempo su Napoleone piuttosto che non su altri periodi storici controversi, che hanno sicuramente aiutato a smitizzare, a sdrammatizzare da una parte, e dall'altra parte forse a ricordare delle pagine che sono scomode. La storia è nostra, signori, non possiamo ignorarla. Cioè queste cose che sono successe, poi possiamo farci su dei romanzi, possiamo parlare, però sono successe, sta a noi superarle. Come? Guardandoci, cercando di prendere meglio dagli altri. Sì, una volta guardavo con un certo fastidio un mio collaboratore che parlava sempre troppo, e un vecchio vicino a me mi ha detto: lascialo parlare, su 99 cose sbagliate una è giusta e tu vale la pena che l'ascolti per imparare quella una cosa che non sai e che lui ti ha detto. Quindi ci vuole anche una sorta di tolleranza, che non è facile, però siamo in Europa, non siamo in Afghanistan, qui non ci sono scontri di religione. Ripeto, se noi vediamo antica battuta di mio padre, che probabilmente l'ha sentita da suo padre, rivolto a me, dice: tanto tu per gli italiani ti sarai sempre un crucco, per i tedeschi ti sarai un Walser, tu rispondi che sai leggere Dante in italiano e Goethe in tedesco, poi fai il gesto dell'ombrello. E penso che questo sia un insegnamento che ho portato con me. Beh, ci vuole un consiglio per gli acquisti, no? Beh, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio infinitamente. Per me è stato veramente un piacere e un onore poter presentare questa mia, chiamiamola pure, fatica, anche se in realtà mi sono divertito, non essendo il mio lavoro, fa parte di oggi, e spero che c'è a disposizione là, che ne prendiate uno per leggerlo. Grazie mille.